ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Mattino. Le 8, 19 minuti e 23 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di mercoledì 23 settembre, la terza parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Più avanti alle 8.35 avremo ospite il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, appena rieletto, per parlare un po' di quelli che sono i dossier caldi, Ilva, Xylella, naturalmente, e poi anche, e naturalmente, un po' di politica. 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666, come sempre, per i vostri sms, messaggi su WhatsApp e WhatsApp audio. È il momento però questo dell'appuntamento con Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno. Eccoci qua. Sì. Facciamo una cosa. Partiamo da Suarez per parlare in realtà di altro, di quello che succede all'interno della politica, all'interno del governo, delle tensioni che attraversano un po' la maggioranza, perché il caso Suarez ci porta quasi inevitabilmente a parlare dei decreti Salvini, ancora una volta, no? Ci porta dritti dritti. Del caso Suarez hai già parlato tu. L'attaccante del Barcellona di origine uruguaiana che deve essere acquistato dalla Juventus, ma siccome la Juventus ha già 4 giocatori stranieri, questo lo vuole far passare per italiano. Allora l'ha mandato a Perugia, dove ha fatto un esame il 17 settembre ed è passato, sa la lingua alla perfezione. Dopodiché sono state scoperte dalle intercettazioni i suoi esaminatori, che dicono che quello parla all'infinito, non spiccica una parola italiana, ed è scoppiato un finimondo. Io penso che, insomma, mi auguro per il rettore dell'Università di Perugia, Giuliana Gregobolli, il direttore generale Simone Olivieri, siccome l'Università di Perugia è un'università, diciamo così, un po' affaticata negli ultimi anni, che non debbano ripetere pubblicamente magari l'esame di Suarez, perché lì verrebbe giù il soffitto. Comunque, non sarebbe male, giornali, esame pubblico, non sarebbe male, esame pubblico. Beh, esame diretta pubblico Facebook di italiano a Suarez, sì, sarebbe, e mi auguro anche che così, che la Juventus si sia limitata a fare della moral suasion sull'Università di Perugia e non ci sia dell'altro, perché sennò il guaio sarebbe nazionale. Non parleremo più di Conte per mesi, parleremo solo della Juventus e di Suarez. Però, come dicevi tu, la vicenda ha un risvolto politico, perché due giornali, Il Foglio e Avvenire, accusano Luigi Salvini, dicono tutte queste complicazioni. Io non ci credo, penso che l'esame dovevano farlo comunque, ma tutte queste complicazioni sono dovute ai decreti Salvini, e prima si cambiano meglio è, perché così sarà più facile anche per Suarez venire alla Juventus. Sì, perché nella versione precedente, lo specifico per gli ascoltatori, nella versione precedente la regola prevedeva che in caso di matrimonio con un italiano o un'italiana, uno non servisse l'esame. I decreti Salvini hanno introdotto appunto questo esame di italiano, che però nella fattispecie è stato fatto un po' così. È stato fatto in questo modo. Comunque avranno presto soddisfazione sia Il Foglio che Avvenire, perché da quello che si capisce nel grande bailamme post-elettorale, il governo Conte ha deciso di cedere sui decreti Salvini, nel senso, mentre il MES verrà rinviato, nonostante le parole, alle calende greche, sui decreti Salvini dice: beh, a questo punto, anche perché la pratica è molto avanzata, a questo punto li cambieremo più radicalmente di quello che era stato l'indicazione del Presidente della Repubblica Mattarella, che fece dei rilievi già quando i decreti nell'estate del 2019 furono approvati, diciamo, li cambieremo più radicalmente, quindi finalmente Suarez avrà anche una legge che lo aiuta perché abolirà questo passaggio. Però questo aspetto dei decreti Salvini è solo una minima parte di questa tempesta che è scoppiata il giorno dopo le elezioni. Ma te l'hai visto? L'avrei sentito di Battista. Anzi, guarda, facciamo una cosa, ti faccio sentire questo passaggio che dà un po' la misura di come l'ha presa Alessandro Di Battista. Abbiamo perso dovunque, abbiamo perso dove sono andato io, dove non sono andato io, dove abbiamo fatto i moderati, dove abbiamo fatto i duri e puri, abbiamo perso in coalizione, abbiamo perso da soli, abbiamo perso dovunque. Ecco qua. E questo è il ritratto che fa della cosa Di Battista. Ha rotto le uova nel cesto perché Luigi Di Maio aveva dato una diverse impostazioni, commenti post-elettorali, aveva detto abbiamo vinto il referendum, noi alle regionali non ci abbiamo mai fatto caso, non correvamo in nessuna regione con qualche chance di vittoria, e invece questa entrata a gamba tesa che poi si accompagnava alle rilevazioni del giorno successivo, quella fatta dai sociologhi, tutti oggi vanno a contare il voto, fanno delle equazioni e stabiliscono che se si fosse votato alle elezioni politiche più o meno i 5 Stelle stavano abbondantemente sotto il 10%. Io non so se sia così, però questo provoca tempesta nei 5 Stelle, perché sai, fra il taglio dei parlamentari, un voto sotto il 10%, però a mio avviso provoca una incertezza stabilizzante, nel senso che a poco cederanno sulla revisione dei decreti Salvini, poi cederanno sulle leggi elettorali, cederanno sul MES, cederanno gradualmente, perché io non mi aspetto che sbrachino immediatamente, e siccome di rimpasto non se ne parla, Conte si sta rivelando per l'ennesima volta una persona intelligente, ha detto ma quale rimpasto? Se noi ci mettiamo a fare un rimpasto, poi il rimpasto deve essere votato dal Parlamento, e stai a vedere che ci fanno qualche scherzo, gli scontenti, i ministri rimossi, così. Al massimo, come avrei visto dal Messaggero, si dice, ma io non credo neanche a quello, almeno al momento, che Zingaretti andrà a fare vicepresidente del Consiglio, ma il Messaggero la racconta in una chiave, devo dire, suggestiva. Dice Zingaretti va lì perché così libera il posto della regione Lazio, quel posto lo assegnano in vista di una futura alleanza alla Lombardi, e in cambio i 5 Stelle su Roma rinunciano, la Raggi. Rinunciano a Virginia Raggi, che per il PD sarebbe ben difficile sostenere, visto che Zingaretti, insomma, in più di un'occasione progetto, prego. Non so se fidarmi, io mi fido ciecamente del Messaggero, però è un progetto che sta in piedi, potrebbe darsi, perché è ovvio che si va alle elezioni comunali fra 8 mesi, non so, 7 mesi. Nel caso, se Zingaretti se ne andasse, ci sarebbe anche un'elezione regionale del Lazio. O si preparano prima, oppure se arrivano sotto come questa volta, il tracollo può essere rischioso, anche perché ho visto che Salvini non perde questa pessima abitudine di fare annunci roboanti. Ha detto adesso conquisteremo, a quelle elezioni di cui stiamo parlando, Roma e Milano. Ma insomma, lui se ne è appena accorto che aver detto 7-0 vinceremo, c'è questa intervista che ho visto, no, mi pare sul Corriere della Sera, nella quale dice esattamente questo, dice conquisteremo Roma e Milano. Non so perché continua a fare questo genere di annunci, se forse una maggiore prudenza gli eviterebbe. In fondo le elezioni di domenica e lunedì per lui sono state difficili, è andata male, ma non un tracollo, un disastro come per i 5 Stelle. Bastava che non avesse detto vinceremo 7-0 e poteva presentarsi dignitosamente davanti ai teleschermi, e adesso sta mettendo le condizioni per presentarsi disastrosamente alle elezioni, sì, di Roma. Basterà che perda Ostia e tutti gli diranno: certo, beh, hai perso Ostia, ormai sei un uomo finito. Esattamente. Sei un uomo finito. Esattamente. Uomini finiti non sono invece i virologi. Il professor Lopalco, tra l'altro più spesso, più volte ospite di questa trasmissione, becca quasi 15.000 preferenze in Puglia. È un fenomeno non politico. Non l'avrei mai detto. L'effetto Covid, e ho visto che anche un altro professore, Crisanti, ha detto: oh, ricordatevi che se Zai ha vinto in quel modo il merito è mio, e adesso chiederò al PD, l'ha detto in maniera più insomma sfumata, meno diretta, di come la sta, ecco, più sfumata, meno diretta di come la sto dicendo io, la prossima volta chiederò al PD di candidarmi perché il merito del successo in Veneto è mio. Quindi avremo sulla scia di Lopalco, che all'inizio a me faceva sorridere, ma neanche per niente, avremo tutti i professori che saranno tentati dall'idea, di candidarsi. Magari avremo un virologo alla guida di Roma, un virologo di destra alla guida di Milano, un virologo di sinistra alla guida di Roma. Virologi e infettivologi ovunque. Epidemiologi, sì, lo so, che hanno mille declinazioni. Tutto. Anche il professor Zangrillo, come mai non si è ancora candidato il professor Zangrillo? Maledizione, che ci vorrebbe. Il partito di Berlusconi è un altro partito che sta messo male, quindi Zangrillo sta guardandosi intorno, sta scherzando, no, ben inteso, perché... professor Zangrillo, se mi ascolta io sto scherzando e la smetto anche di scherzare. Ultima cosa, Paolo, andiamo un po' più sul leggero, se ti va. Oggi ho visto una tenera, direi quasi tenera veramente, intervista a Fausto Leali sul Corriere della Sera, con quest'aria dimessa dopo che ha avuto questi due scivoloni nel Grande Fratello VIP, ha chiamato negro il fratello di Balotelli, poi ha parlato delle cose buone fatte dal Duce. Lui dice: guardate che in questa intervista, guardate che io non pensavo che quella parola lo offendesse, del resto l'ho usata anche in uno dei miei più grandi successi. Guarda, ti faccio sentire Paolo. Io sono un povero negro ed una cosa ti prego. Poi Wilson Pickett è stato il padrino di mia figlia, dice, insomma, un'aria proprio, non so, veramente come un uomo colpito da questa cosa. Io la trovo una vicenda commovente. Fausto Leali, che è uno dei più grandi cantanti italiani, che provocò un terremoto quando cantò A Chi, un terremoto in positivo ovviamente, finito il Grande Fratello VIP, io non capisco neanche perché ci vadano, forse sì, li pagano, ma, anzi sicuramente li pagano. Però ha 75 anni, insomma, è un mito vivente, e è incappato nelle due cose che raccontavi tu. Ha detto: beh, ma Mussolini in fondo ha fatto delle cose che fino a 10, 20, 30 anni fa erano delle cose normali che si dicevano, si sentivano dire al bar, e lui appunto poi ha cantato una canzone, Angeli Negri, e adesso oggi in quell'intervista a Chiara Maffioletti sul Corriere dice: ma non lo so, in America si dice afroamericani, come dovremmo dire qua? E Cristina Chiara Maffioletti gli dice: afroitaliani, sì, ma io faccio fatica, insomma, insomma capisco il motivo dello sdegno. Mi dispiace per vedere queste foto di Fausto Leali così un po' dimesso, un po' affranto, e però è arrivata in tempo, perché sai, io stavo per proporre una statua a Fausto Leali per il suo ruolo nella musica italiana. Meglio che mi sono fermato in tempo, perché immagina tu quella statua, l'avrebbero buttata giù, ovviamente oltraggiata, decapitata e così, e quindi niente statua a Fausto Leali, magari mi faccio una statua del presepe in casa mia. Grazie Paolo Mieri, ci sentiamo domani dopo il GR delle 8. Ciao Paolo. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Mattino. Le 8, 36 minuti e 45 secondi, se volete intervenire in diretta su qualsiasi argomento, 800 24 00 24. E poi 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Buongiorno a Michele Emiliano, appena rieletto presidente della Puglia. Emiliano, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Prima di andare su tutte le questioni politiche, delle quali stiamo discutendo infinitamente da due giorni, ci consenta di andare su dossier molto concreti, perché ce n'è uno che riguarda la sua regione e che il governo ha lasciato sospeso, almeno per il momento, forse proprio in attesa dell'appuntamento elettorale. Fatto sta che la vicenda Ilva in queste ultime ore si è scaldata. Blocchi delle merci e del transito ai cancelli, uno sciopero proclamato per domani con un sit-in annunciato sotto Palazzo Chigi, il ministro Patuanelli che convoca con urgenza i sindacati, però solo nel momento nel quale arriva in sostanza una pressione forte anche in termini sindacali. Secondo lei l'esecutivo è in ritardo nella gestione della vicenda? Si è mosso troppo coi piedi di piombo? Cosa bisogna fare adesso? È una vicenda che è cominciata male, perché noi abbiamo, come Italia, deciso di affittare il ramo di azienda, l'Ilva, al più grande acciaiere d'Europa, che aveva, devo dire, non molto interesse ad acquisire la fabbrica e a gestirla, quanto piuttosto ad evitare che cadesse nelle mani di un suo concorrente. Quindi abbiamo affidato il nostro pezzo più pregiato alla peggiore delle babysitter, se mi permettete questo termine. Sì, questa è una tesi, lo ricordiamo, su qua ci sono tesi opposte, su questo lei notoriamente, l'abbiamo ospitata su questo tema più di una volta, sostiene questa, prego. Dopodiché nessuno ha qui l'idea che l'Italia debba venire fuori dal settore dell'acciaio, io lo ribadisco in questa sede così autorevole, perché spesso i miei avversari politici hanno cercato di far passare l'idea di un Emiliano matto che pensa di fare a meno dell'acciaio. Non è assolutamente così. Noi pensiamo però che questa fabbrica vada affidata in mani consapevoli dell'importanza strategica del sito, e anche consapevoli che, proprio perché questo sito è importante, va reso compatibile con la salute delle persone, perché altrimenti è come se noi avessimo un virus infilato dentro l'Ilva che la distruggerà prima o poi, perché non è possibile, secondo gli insegnamenti aziendali di tutte le università del mondo, che un sito industriale sia odiato dal contesto dove svolge la funzione. Queste cose, dico, si imparano in tutte le facoltà di economia, non capisco perché non le mandino a memoria. Quindi noi abbiamo fatto una proposta che non è una proposta regressiva o luddista, è una proposta che fa un salto in avanti. Questa proposta è stata così presa sul serio, quella della cosiddetta decarbonizzazione, sintetizzo ovviamente, sì, che l'Unione Europea non solo ha affidato alla Puglia i pareri di medio periodo sui mutamenti climatici, quindi vuol dire che la legittimazione che abbiamo avuto è enorme, ma soprattutto ha ricominciato a finanziare le grandi fabbriche energivore e con alti tassi di emissione, e ha messo a disposizione questo Green New Deal, che per noi è centrale. Però dobbiamo cambiare la tecnologia della fabbrica. Prima cominciamo, meglio è, perché i processi di ricostruzione della fabbrica sono necessari, perché tutti gli altri forni o quasi sono o fermi o al limite della fermata. Emiliano, va statalizzata l'Ilva, secondo lei? Ma statalizzare è una parola sbagliata, nel senso che è possibile che, come è accaduto per qualche banca anche in Puglia, no? Dove abbiamo avuto un altro problema. La Popolare di Bari, siamo usciti brillantemente. E la regione tutte le volte dice: bene, se lo Stato fa la sua parte, anche la regione vuole fare la sua parte. Noi siamo disposti a entrare nel capitale della banca e siamo disposti a entrare nel capitale di Ilva, ovviamente sono partecipazioni simboliche, anche se importanti, per garantire creditori, innanzitutto, perché lì hanno messo, come si dice da noi, in fresco 150 milioni di euro a tutto l'indotto locale. Ora, 150 milioni possono sembrare una cifra piccola nell'economia globale, ma a Taranto togliere alle aziende dell'indotto 150 milioni significa farne fallire la metà. E allora questi 150 milioni possono entrare possono essere trasformati nelle quote di una nuova azienda che dice ad ArcelorMittal grazie molte per l'interessamento, ma per ora penso che sia meglio che andiate dove... E questa è la cifra, Emiliano, che sareste disposti a mettere in campo, in sostanza? Noi potremmo partecipare, perché l'Ilva consuma moltissima acqua potabile, purtroppo. Sì. L'acquedotto pugliese, che è il più grande acquedotto d'Europa, è un'azienda fantastica, totalmente di proprietà della regione, efficientissima, che fa utili, è disposta a entrare nel capitale e noi possiamo provare a garantire la prosecuzione dell'attività industriale e i processi di ricostruzione della fabbrica secondo le regole della decarbonizzazione, che peraltro avviso tutti i brevetti più importanti in materia di decarbonizzazione delle acciaierie sono di proprietà di industrie italiane. Emiliano, mi faccia stare sulle cifre, quindi 150 milioni è l'impegno che potreste prendere? No, tramite 150 milioni sono i soldi che lo Stato dovrebbe restituire agli imprenditori locali, i quali, avendo capito che li hanno persi, sarebbero disposti a trasformarli in una quota di partecipazione. Dopodiché la regione potrebbe aggiungere altri milioni di euro a questa partecipazione. E in che dimensione, mi scusi? Ragguardevole, adesso fare i numeri in questo momento mi sembrerebbe assurdo, però possiamo rafforzare Vediamo le carte, e poi ragioniamo la responsabilità assieme al governo di gestire questa fabbrica secondo regole moderne, con innovazione tecnologica avanzata, garantendo la salute, perché se proprio deve funzionare sta fabbrica, certo non può continuare a funzionare col ciclo integrato basato sul carbon coke. Senti Emiliano, visto che siamo sulle spine, sulle cose un po' più spinose, restiamo un attimo sulle cose più spinose e mi faccia dire questo, ma solo 8 consigliere donne, solo 8 consigliere regionali donne, davvero finisce così in Puglia su 50? Ma guardi, lei non ha idea la fatica che ho dovuto fare, perché gli uomini si proteggono dalle donne in tutti i settori, soprattutto purtroppo nei luoghi importanti dove c'è da dirigere la storia dell'Italia. Gli uomini si difendono e tentano di tenere le donne al margine. Io ho dovuto convincere il Presidente del Consiglio e il Ministro Boccia ad esercitare i poteri sostitutivi dell'articolo 120 della Costituzione per la prima volta nella storia d'Italia, per introdurre nella legge elettorale pugliese la doppia preferenza, che è una cosa che c'è in tutti i comuni d'Italia e che invece i consiglieri della vecchia legislatura non volevano introdurre con una maggioranza trasversale, perché erano, lo dico veramente adesso senza preoccupazioni particolari, erano tutti d'accordo, tentavano di tenere fuori le donne. Però Emiliano, lei avrà messo mano sulle candidature, no? Una voce ce l'avrà messa sulle candidature, lei? Ovviamente le candidature, io ho guardato quelle delle liste, diciamo, che potevo controllare direttamente. Il problema non sono le candidature, il problema sono come costruisci le liste. E purtroppo in qualche caso la doppia preferenza di genere, anziché essere utilizzata per promuovere le donne, è stata utilizzata per promuovere ulteriormente, come si possiamo dire, gli uomini dominanti, e anche questo è un errore politico che non bisogna fare. In ogni caso noi faremo una giunta, finalmente, grazie alle 8 donne che sono state elette, faremo una giunta di 5 uomini e 5 donne. Perfetta chiuderemo parità. La partita. Perfetta parità. E in questa giunta Lopalco sarà assessore alla sanità, dai, no? Sì, Lopalco ha avuto un successo elettorale strepitoso, ha preso 14.000 voti, che è una cosa lui credo non si fosse candidato mai da nessuna parte, neanche negli organismi scolastici quando andava a scuola. Insomma, o comunque non ha mai avuto un successo del genere, è dipeso molto dal gruppo, nel senso che lui rappresentava il successo della gestione dell'emergenza Covid in Puglia, che non è stata così semplice come qualcuno la racconta. Noi abbiamo avuto più di 5.000 contagiati, più di 500 morti, e soprattutto quando c'è stata la chiusura della Lombardia, e qui la Lombardia è la seconda, è la Puglia bis, come tutti sanno, è strapiena di pugliesi, qui sono arrivati centinaia di migliaia di pugliesi e abbiamo inventato la famosa ordinanza della quarantena, che non esisteva prima, cioè sono arrivati qui, si sono chiusi in casa, abbiamo avuto così la possibilità di registrare 200 focolai che se non fossero andati tranquillamente in giro ma avrebbero incendiato tutta la regione. Poi questa ordinanza è stata copiata da tutte le altre regioni e abbiamo salvato il sud grazie alla tecnica della della quarantena, perché non riuscivamo a fare i tamponi allora, mentre adesso abbiamo i macchinari per farli. Allora la Puglia poteva fare al massimo 200 tamponi al giorno. Sì, che ne avete fatti pochi di tamponi, Emiliano, complessivamente. Certo, perché allora praticamente in tutte le regioni del sud, questa idea che il sud non fosse in grado di gestire il sistema sanitario era talmente entrata nella testa di tutti, che se noi avessimo onestamente comprato macchinari per fare 20.000 tamponi al giorno, come abbiamo adesso, e li avessimo comprati prima del lockdown, ci avrebbero arrestati tutti, perché avrebbero detto: ma voi state favorendo i venditori di reagenti. Non so se è chiaro, perché la testa era quella. Adesso la testa è cambiata. Senta Emiliano, veniamo sul livello più nazionale di questo voto, perché l'impatto è stato evidente sul governo, ne abbiamo parlato lungamente, abbiamo detto che questo rafforza in parte Nicola Zingaretti, la segreteria di Nicola Zingaretti, rafforza anche il governo evidentemente. Mi pare che ci sia un altro elemento, rafforza voi presidenti di regione nel complesso, parlo di lei, parlo di De Luca, parlo di Zaia, parlo dello stesso Toti, rappresentate, iniziare a rappresentare una sorta di contropotere all'interno dei partiti, secondo lei è così? Che i partiti abbiano un ruolo, diciamo, molto marginale, questo è diventato evidente, ma dipende dalle leggi elettorali. Se noi abbiamo delle leggi elettorali dove nel governo nazionale i partiti hanno un ruolo solo nella formazione delle liste, poi dopo non si capisce più niente, perché gli elettori non riescono a far coincidere il loro voto con poi un programma, perché qui di tutto si parla fuorché delle cose da fare. Viceversa, la Costituzione della Repubblica, questo va detto, fa funzionare l'Italia in un rapporto che è descritto dalla Conferenza Stato-Regioni in maniera simbolica, sì, dove il governo fa delle proposte, ma poi l'attuazione di queste proposte al 90% deriva dalle regioni, ed è questo il motivo per il quale, sì, abbiamo la seconda o terza sanità del mondo, perché le regioni sono molto impegnate e abbiamo, sì, un sistema sanitario che molto efficiente, molto più efficiente di quello di altri paesi. Adesso che ci daranno un po' più di soldini, perché hanno capito che stringere la borsa sulla sanità significa abbassare la qualità della vita delle persone e ridurre l'attrattività di un territorio, vedrà che cosa succederà, perché le regioni sono efficienti, sì, persino quelle del sud. E il MES va preso, Emiliano, a proposito? Ma assolutamente, se qualcuno ti dà dei soldi e te li dà a un tasso di interesse basso, e in cambio ti chiedono solo di poter sorvegliare i tuoi libri contabili, beh, questo non mi pare una perdita di sovranità. È ovvio che chi ti sostiene ti chiede poi, per favore, comportati in modo adeguato, perché se io ti presto dei soldi e tu vai a giocare al casinò, a me non sta bene. Se viceversa io ti presto dei soldi e tu li utilizzi bene, e siccome questo l'Unione Europea onestamente lo fa a prescindere dal MES, io non vedo tutta questa lesione della sovranità. Il vero problema è che dopo il lockdown tutti i sovranismi, tutti gli anti-europeismi sono finiti miseramente. Abbiamo capito tutti che dipendiamo, come nel film Avatar, l'uno dall'altro. Emiliano, ha qualcosa da dire a Di Battista, che è arrivato là in Puglia negli ultimi giorni di campagna elettorale? Ieri abbiamo visto il suo sfogo, nel quale dice: abbiamo perso dappertutto, abbiamo sbagliato, eccetera eccetera, però negli ultimi giorni di campagna elettorale è arrivato là a dire: no, non votate per Emiliano, non fate il voto disgiunto, votate per la nostra candidata, per carità, mentre altri ha avuto un effetto contrario, cioè nel senso che non hanno fatto il disgiunto, è vero, ma hanno votato direttamente, che è stato anche peggio. Io sinceramente, al posto di Alessandro, che è una forza della natura, quindi io vorrei, anche essendo di una generazione molto più antica della sua, mi piacerebbe che quell'energia fosse incanalata in maniera corretta e giusta, mi piacerebbe che lui, prima di dare un giudizio su una vita intera che è la mia, si facesse con me una chiacchierata con calma, e se possibile fosse disponibile a rivedere i suoi giudizi anche morali sul sottoscritto, che qualche volta mi hanno fatto del male, nel senso che io ho dedicato tutta la mia vita alla Repubblica Italiana, da quando avevo 27 anni che sono andato alla Procura della Repubblica di Agrigento al fianco di Rosario Di Latino. Io sono stato al servizio della Repubblica, poi avrò commesso i miei errori, ci mancherebbe, sì, avrò anche avuto qualche compagno di cordata quando abbiamo fatto le elezioni sbagliato, questo succede, dopo tanti anni è possibile che io abbia fatto qualche scelta sbagliata, ma io ho rispettato sempre le leggi di Dio e degli uomini, sempre. Senta, quella scena dei 200 assunti, quella che Giorgia Meloni definisce col bacio dell'anello al presidente della regione Puglia, è proprio veramente un equivoco. Sono le stabilizzazioni previste dalla legge che noi abbiamo attuato internalizzando alcuni servizi, dopodiché io sono l'assessore della sanità perché ho ottenuto la delega ed era ovvio che io partecipassi alla firma dei contratti. Però qualcuno lo dice, avrebbe potuto farlo il 22 di settembre, no? Ma devo anche dirle che siccome quella cosa era inevitabile, cioè non dipendeva dalla mia volontà, cioè era una cosa che andava fatta, punto e basta, per legge nazionale, fatta e votata, credo, anche dalla Meloni, non lo so se l'abbia votata, la legge sulle stabilizzazioni. Quindi io sono andato lì, nonostante la campagna elettorale, proprio per una questione di protocollo, cioè di essere presente nel momento in cui i nuovi dipendenti finalmente avevano un posto di lavoro stabile, ma non c'era veramente nessuna malizia. Se li hai succhiati tutti lei i voti dei 5 Stelle giù in Puglia, o quasi? No, tutti no, perché devo dire che i 5 Stelle credo che in Puglia siano fortissimi, la regione dove sono più forti. Devo anche dire che la loro idea dal punto di vista della tattica elettorale non era del tutto fuori senso, cioè loro dicevano: se noi veniamo subito con te, noi rischiamo di perdere quella identità che però peraltro può anche essere utile nella strategia generale, no? Io credo che loro abbiano sbagliato, perché c'è una tattica elettorale, non c'è dubbio, ma ci sono anche dei simboli. Poter vincere insieme in una regione come la Puglia con un candidato che addirittura aveva contro i renziani per protogrillismo, l'accusa che mi veniva rivolta da Calenda e da Renzi, era quella di essere un antesignano del Movimento 5 Stelle. Ora, non è vera questa cosa, perché io sono molto più conforme alle regole di quanto appaia dall'esterno e anche sono anche più noioso, ecco, diciamo così, di quello che può apparire. Allora, una situazione così favorevole per portare a casa una vittoria simbolica che avrebbe creato poi dopo un effetto molto positivo sul paese e sul governo è stato un errore. Io ho fatto la campagna elettorale dicendo: devo vincere anche per il Movimento 5 Stelle. Cosa che, grazie a Dio. In una battuta, è finito il Movimento 5 Stelle, secondo lei, o va verso la fine? No, secondo me no. Se loro si danno una calmata e capiscono che è normale nella vita che ci siano degli alti e dei bassi, come è normale nella vita che un contenitore possa anche avere dentro delle persone sbagliate. Può succedere, perché come ho detto, l'uomo è un legno storto, va raddrizzato ogni mattina, non c'è nessun contenitore sterile dal punto di vista etico. Loro devono smettere di pensare di essere gli unici onesti e bravi del mondo, devono scendere sulla terra, e poi dopodiché ci sono grandi valori in quel movimento che non possono essere buttati via. Grazie a Michele Emiliano, avremo molto altro, ma tanto torneremo a parlarne, lo dico a Gianluigi da Brescia e a tutti gli altri che ci hanno telefonato, qualcuno ci chiede la xylella e parleremo anche di quello, Emiliano, ci torneremo, grazie, buona giornata, buon lavoro e buon secondo mandato naturalmente. Ci risentiamo domani alle 6:30, grazie a Peter Besca per regia, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Da Simone Spezia, una buona giornata, domani, ciao. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.